Ad alta voce. Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. Shahrazad era la padrona di un piccolo bar francese che si chiamava Shahrazad, l'unico locale della Medina che rimaneva aperto tutta la notte. A volte era completamente vuoto, a volte vi erano sedute 3 o 4 persone, ma quando era pieno, per lo più tra le 2 e le 3 di notte, ogni cliente sentiva parola per parola quello che dicevano gli altri e tutti attaccavano discorso con tutti. Poiché lo spazio era pochissimo, bastavano 20 persone sedute o in piedi per dare l'impressione che l'intero locale dovesse scoppiare da un momento all'altro. Subito dietro l'angolo, a una distanza di appena 10 passi, c'era la grande piazza deserta, la Jami Al-Fana. Non si può immaginare un contrasto più grande. Tutto intorno alla piazza dormivano per terra uomini miserabili, vestiti di stracci. Spesso facevano corpo a tal punto con il terreno che bisognava stare attenti a non calpestarli. Chiunque a quell'ora si reggesse in piedi e camminasse nella piazza era considerato un individuo sospetto, da cui era meglio guardarsi. La vita vera della Jami era finita da tempo quando iniziava quella del piccolo bar. L'aspetto dei frequentatori era europeo. Venivano i francesi, gli americani, gli inglesi. C'erano anche degli arabi, i quali però erano vestiti all'europea, oppure bevevano, il che bastava ai loro occhi almeno a renderli moderni o europei. Le bevande erano molto costose e solo gli arabi benestanti si arrischiavano ad entrare. Gli uomini vestiti di stracci che giacevano sulla piazza non avevano un soldo in tasca o al massimo un paio di franchi. I clienti dello Shahrazad pagavano 120 franchi per un bicchierino di cognac e ne trangugiavano parecchi, uno dopo l'altro. Sulla piazza, prima che questa si addormentasse, ci eravamo abituati alla lamentevole musica araba che le radio trasmettevano a pieno volume da ogni locale che disponesse di un tetto. Nel bar si suonavano soltanto ballabili europei, sommessamente però, e chiunque varcava quella soglia si credeva una persona distinta. Madame Mignon provvedeva alle ultime canzonette di successo. Era orgogliosa dei suoi dischi e circa una volta alla settimana veniva nel locale con una nuova pila di dischi appena acquistati. Li metteva per i suoi clienti abituali, interessandosi vivamente ai gusti di ciascuno. Era nata a Shanghai, da padre francese e madre cinese. I suoi occhi a mandorla li aveva fatti regolare con un'operazione, sicché ormai era rimasto ben poco della sua fisionomia cinese, ma non nascose mai a nessuno che sua madre era cinese. Prima di arrivare in Marocco, aveva vissuto in altre colonie francesi. Per alcuni anni era stata douala. Su tutte le nazioni aveva qualcosa da ridire. Non ho mai trovato in nessuno pregiudizi così primitivi e incrollabili come in quella donna. Però non permetteva che si parlasse male dei francesi e dei cinesi e aggiungeva sempre con orgoglio: «Mia madre era cinese, mio padre era francese». Tanto era contenta e soddisfatta di sé quanto aveva da ridire sui clienti del bar, la cui origine non fosse francese o cinese. Guadagnai la sua fiducia con una lunga conversazione, una sera che ero rimasto solo con lei nel locale. Se prima di andarsene i miei amici della troupe cinematografica inglese si dimenticavano di offrire un giro di consumazione agli altri clienti, qualche volta intervenivo io al posto loro. Lei, quindi, mi aveva preso per un uomo ricco, ricco in segreto, com'è consuetudine degli inglesi, che raramente si vestono in modo da farlo vedere. Qualcuno, forse per prendersi gioco di Madame Mignon, le aveva detto che ero uno psichiatra. poiché spesso stavo seduto tranquillamente, senza dire una parola, e più tardi, quando restavamo soli noi due, la interrogavo a fondo sui suoi clienti, lei decise di prestar fede a quella diceria. Io non obiettai nulla, anzi, ero contento, perché così lei mi raccontava di più. Era sposata con Monsieur Mignon, un tipo grande e robusto, che aveva prestato servizio nella legione straniera e che nel bar dava scarso aiuto. Quando mancavano i clienti, egli dormiva volentieri, allungato sulle panche del minuscolo locale. Ma non appena arrivavano degli ospiti che lui conosceva, subito li portava nel bordello francese che si chiamava La Riviera, a pochissimi minuti dal bar. Gli piaceva passare lì un paio d'ore, poi ritornava, di solito con i suoi clienti. Raccontavano alla donna dove erano stati, riferivano sulle nuove ragazze che erano arrivate al bordello. Bevevano qualcosa e magari, più tardi, tornavano alla Riviera con altri clienti. Era questa la parola che si udiva più frequentemente nel bar Scheherazade. Monsieur Mignon aveva un viso rotondo, un viso assonnato da ragazzino sopra due spalle potenti. Sorrideva pigramente e, cosa strana per un francese, parlava poco e con lentezza. Anche la moglie sapeva tacere, aveva una sua sensibilità e quasi mai si dimostrava invadente. Ma una volta incominciato, non la finiva più di parlare. Lui, intanto, sciacquava qualche bicchierino, o dormiva, o andava al Riviera. Madame non permetteva mai al suo forzuto marito di cacciar fuori i clienti ubriachi che diventavano insolenti. Pensava lei a tutto. Il locale era suo. E per i casi pericolosi aveva nascosto uno sfollagente dietro il banco del bar, là dove c'erano i dischi e il grammofono. Ai suoi amici mostrava volentieri lo sfollagente. La qualcosa suscitava ogni volta risatine allusive e poi aggiungeva «Lo tengo solo per gli americani». Le grane più grosse le aveva con gli americani ubriachi e per questo li odiava appassionatamente. Ai suoi occhi esistevano due specie di barbari, gli indigeni e gli americani. Suo marito non era sempre stato nella legione straniera. Un giorno, rivolgendosi a me con quel suo fare tra il pigro e il furbastro, egli domandò: «Lei è un dottore? Un dottore dei matti, non è vero?» «Che cosa glielo fa credere?» domandai io fingendomi sorpreso. «Ce l'hanno detto. Io sono stato 2 anni come sorvegliante in un manicomio vicino Parigi.» «Allora se ne intende», dissi, e lui si sentì lusingato. Mi raccontò del suo lavoro in quell'epoca, di come avesse conosciuto a fondo i matti e sapesse con precisione quali erano pericolosi e quali no. Aveva inventato una sua semplice classificazione, che dipendeva da quanto ciascuno di essi gli era sembrato pericoloso. Lo interrogai sui matti di Marrakesh ed egli menzionò alcuni casi noti in città. Da quella sera in poi mi trattò un po' come un vecchio superiore che svolgesse un lavoro analogo al suo. Tra l'altro ci lanciavamo delle occhiate quando nel locale c'era qualcuno che faceva un po' il matto e di quando in quando egli mi offriva persino un cognac. Madame Mignon aveva un'amica, una sola, che le era utilissima. Si chiamava Ginette e veniva sempre. Sedeva per lo più su uno degli alti sgabelli davanti al banco e aspettava. Era giovane, tutta agghindata e assai pallida in volto, come chi usa stare alzato di notte e dormire di giorno. Aveva gli occhi sporgenti. Si girava in continuazione verso la porta del bar per vedere se entrava qualcuno. Così i suoi occhi parevano incollati alle vetrate. Ginette desiderava ardentemente che accadesse qualcosa. Aveva 22 anni e non era mai uscita dal Marocco. Era nata qui, da madre italiana e da un padre inglese che era andato a Dakar e che di lei se ne infischiava. Le piaceva molto sentir parlare l'inglese, in quanto le ricordava suo padre. Che mestiere facesse costui, perché avesse vissuto in Marocco e poi fosse andato a Dakar, non mi riuscì di saperlo. Madame Mignon e la stessa Ginette lo menzionavano talvolta con fierezza e lasciavano intuire, senza dirlo apertamente, che egli era sparito a causa di sua figlia. Sicuramente desideravano entrambe che fosse così, perché visto che il padre non si curava affatto di Ginette, era pur sempre qualcosa che egli evitasse accuratamente la città dove lei viveva. Della madre non parlavano mai. Avevo l'impressione che essa vivesse ancora a Marrakesh, ma che loro non ne fossero molto fiere. Forse era povera, o magari non svolgeva un lavoro particolarmente dignitoso. O forse loro due non avevano una grande opinione degli italiani. Ginette sognava di visitare l'Inghilterra. Era un paese che la incuriosiva moltissimo. Ma sarebbe andata volentieri dovunque, anche in Italia. Aspettava un cavaliere che la portasse via dal Marocco. Nelle ore in cui il bar era vuoto, l'attesa di Ginette sembrava particolarmente spasmodica. Tra il suo alto sgabello e la porta c'era una distanza di circa 3 metri, ma ogni volta che questa si apriva, lei si tirava indietro, come colpita violentemente agli occhi. Ginette non era sola la prima volta che la notai. Sedeva accanto a lei un uomo giovanissimo, dall'aspetto effeminato, ancora più ben messo di lei. I grandi occhi scuri e il colorito bruno del volto tradivano in lui il marocchino. Ginette era in rapporti molto intimi con questo giovane e spesso venivano insieme nel locale. Li scambiai per una coppietta e così presi l'abitudine di osservarli quando ancora non sapevo nulla di loro. Lui aveva sempre l'aria di venire direttamente dal casino e non solo nell'abbigliamento si era totalmente adattato alle usanze francesi. Si lasciava infatti accarezzare in pubblico da Ginette, cosa che per un arabo è la più grande delle vergogne. Bevevano molto. Qualche volta c'era con loro un'altra persona, un uomo di circa 30 anni con un aspetto un po' più virile e non altrettanto azzimato. La prima volta che Ginette mi rivolse la parola, con una certa timidezza, poiché pensava che fossi inglese, era seduta davanti al banco. Io sedevo alla sua destra e il suo ragazzo alla sua sinistra. Domandò come procedeva il film che i miei amici stavano girando a Marrakesh. Per lei non era un fatto da poco e, come capii ben presto, desiderava con tutta l'anima prendervi parte. Risposi gentilmente alle sue domande. Madame Mignon era contenta che finalmente la sua migliore amica ed io ci fossimo incontrati. Conversammo un po', quindi nel presentarmi il giovanotto alla sua sinistra disse che era sposata con lui. Rimasi stupidissimo. Era l'ultima cosa che avrei immaginato. Vivevano insieme già da 1 anno. A vederli in coppia sembravano ancora in viaggio di nozze. Ma quando Ginette era seduta lì senza di lui e guardava senza posa con occhi nostalgici in direzione della porta, la persona che aspettava non era certo suo marito. Scherzando con discrezione, le rivolsi qualche domanda riguardo alla sua vita. E così venni a sapere che alle 3 di notte lasciavano il bar per cenare a casa. Verso le 5 del mattino si mettevano a letto e dormivano fino a metà del pomeriggio. «Che lavoro fa suo marito?» domandai. «Niente», rispose lei. «A suo padre». Madame Mignon ci stava ascoltando e a questa informazione sorrise malignamente. Il giovanotto bruno ed effeminato sorrise con timidezza, ma tanto da mostrare generosamente i suoi bei denti. La sua vanità oscurava tutto, anche il più increscioso imbarazzo. Ci offrimmo da bere, a vicenda, e attaccammo discorso. Mi accorsi che era viziato, proprio come sembrava. Gli chiesi quanto tempo avesse vissuto in Francia. A tal punto sembrava francese. «Mai», rispose, «non sono mai uscito dal Marocco». «Sarebbe andato volentieri a Parigi». «No, non ne aveva voglia. Forse in Inghilterra?» «No, proprio no. C'era insomma un luogo dove avrebbe desiderato andare?» «No». A tutte le domande rispose con fiacchezza, come se non avesse una vera volontà. Sentì che doveva esserci qualcosa di cui lui però non parlava, qualcosa che lo legava a questa città. Non poteva trattarsi di Ginette, perché lei faceva capire chiaramente che ogni altro posto le sarebbe stato più gradito di questo. Quella coppia, che sembrava così piatta e normale, rimaneva un enigma per me. Ogni notte li vedevo nel piccolo bar. A parte gli stranieri che barcavano la soglia del locale, essi si interessavano a una cosa soltanto: i dischi di Madame Mignon. Esprimevano il desiderio di ascoltare determinate canzoni. Alcune le trovavano talmente belle da farle suonare 6 volte, una dietro l'altra. Poi la cosa li prendeva alle gambe e cominciavano a ballare nel piccolissimo spazio tra il banco e la porta. Erano talmente incollati uno all'altro con tutte le membra che starli a guardare era un po' imbarazzante. Ginette, che pure godeva di quel modo intimissimo di ballare, davanti agli spettatori si lamentava del suo uomo. «È una cosa tremenda ballare con lui. Vuole farlo soltanto così. Gliel'ho detto tante di quelle volte. Dice che non può fare diversamente». Poi cominciava un nuovo ballo, e una volta preso l'air, stava attentissima a non perdere un solo giro del disco. Mi immaginavo Ginette in un altro paese, un paese che la tirasse, e come laggiù avrebbe condotto la stessa vita, con la stessa gente, alle stesse ore. E la vedevo ballare a Londra, al suono degli stessi dischi. Una notte che ero solo nel bar, Madame Mignon mi domandò se mi piaceva Ginette. Sapendo come bisogna comportarsi, le dissi: «Ha un carattere piacevole». «È irriconoscibile», disse Madame Mignon. «Se lei sapesse com'è cambiata quest'anno, è infelice, poverina. Non avrebbe dovuto sposarlo. Questi indigeni sono tutti dei cattivi mariti. Il padre di lui è ricco. Bisogna ammettere che è di buona famiglia, ma lo ha diseredato perché ha sposato Ginette. E il padre di Ginette non vuole saperne di lei, perché ha sposato un arabo. Ora, tra tutti e due non hanno niente. Ma come vivono allora, se lui non lavora e suo padre non gli dà nulla? Come? Non lo sa. Non sa chi è il suo amico. No, come faccio a saperlo? Eppure lei lo ha visto qui. Era seduto accanto a loro. È un figlio del Glaoui. Il marito di Ginette è il suo favorito. La cosa dura da molto tempo. Il Glaoui adesso è arrabbiato con suo figlio. Contro le donne non ha nulla. È contento che i suoi figli abbiano tutte le donne che vogliono, ma non gli piace che vadano con gli uomini. Alcuni giorni fa ha mandato via il figlio. E di questo è vissuto il marito di Ginette? Sì, e anche dei soldi che guadagna lei. La costringe ad andare a letto con arabi ricchi. Ce n'è uno soprattutto, della corte del figlio del Glaoui, a cui Ginette piace molto. Non è più giovane, però è ricco. All'inizio lei non lo voleva, ma il marito l'ha costretta. Adesso si è abituata a lui. Spesso adesso vanno a letto in 3. Se lei non vuole, il marito la picchia. Ma lei ora fa l'amore soltanto con gente estranea. Lui è gelosissimo. Le permette di andare a letto solo con gli uomini che la pagano. Se a lei piace qualcuno, le fa scenate di gelosia. La picchia se uno non le piace, e lei non lo vuole nemmeno per denaro. E poi la picchia ancora se uno le piace a tal punto che farebbe l'amore con lui anche senza denaro. Per questo Ginette è così infelice. Povera ragazza. Non può mai fare quello che vuole. Vive nell'attesa che un uomo la porti via. La porti via da qui. Vorrei poterle augurare di andarsene, perché mi fa pena. Ma è la mia unica amica qui. Se va via Ginette, a me non rimane nessuno. Mi diceva che il Glaoui è arrabbiato con il figlio. Sì, lo ha mandato via per qualche tempo. Spera che dimentichi il suo prediletto. Ma questo non accadrà. Sono talmente presi uno dell'altro. E l'amante di Ginette? È partito anche lui, con il figlio del Glaoui. Ha dovuto farlo, dopotutto appartiene alla sua corte. Così adesso sono via tutti e due, sì, è un duro colpo per loro. Ora non hanno denaro, fanno debiti per vivere, ma la cosa non può durare a lungo. Il Glaoui ha già tentato più volte di dividerli. Il figlio torna sempre. Non lo sopporta. A lungo andare non resiste senza il marito di Ginette. Dopo qualche settimana è di nuovo qui e suo padre cede. Allora tutto tornerà a posto. Ah sì? Le cose si sistemeranno. Non è niente di serio. È solo che per questo lui è un po' irritato con Ginette, tutto qui. Cerca di trovare qualcuno per questo periodo. Perciò ha parlato con lei. Dicono che lei è molto ricco. Sulle prime ha pensato a sé, ma io gli ho detto che non c'è niente da fare. Lei, secondo me, è troppo una brava persona per uno come lui. Le piace Ginette? Solo adesso cominciavo a capire che la mia presunta ricchezza mi aveva giocato un brutto tiro. Ma su un punto facevo torto a Madame Mignon. Bisognerebbe portarla via di qui, disse. Non dia a lui dei soldi per Ginette. Il denaro come arriva se ne va, e a quella povera ragazza non serve a niente. Non metterà da parte mai nulla finché sta col marito. Lui le porta via tutto. Parta semplicemente con lei. La ragazza mi ha detto che è disposta a venire, se lei vuole. Lui non può andarsene via di qui. È comunque uno del seguito del figlio del Glaoui, e quindi andarsene non gli è così facile. Non gli darebbero il passaporto. La ragazza mi fa tanta pena. Mi sembra che il suo aspetto peggiori di giorno in giorno. Avrebbe dovuto vederla un anno fa come era fresca. Fresca come un bocciolo. Ha bisogno di essere trattata bene e di una vita come si deve. Dopotutto è un inglese, naturalmente, come suo padre. E al tempo stesso è così affettuosa. Non ci si crederebbe. Lei lo avrebbe detto che era un inglese. No, dissi. O forse sì. Forse l'avrei riconosciuta come inglese a causa della sua finezza. È quello che penso io, disse Madame Mignon. Ha una certa finezza, come un inglese. A me personalmente gli inglesi non piacciono. Sono troppo flemmatici per i miei gusti. Guardi i suoi amici. Stanno seduti in 7 o 8 per tutta una sera, ore e ore, e non fanno il minimo rumore. Mi mette in sospetto il loro modo di fare. Non si sa mai se tra loro non si nasconda qualcuno che ha commesso un delitto sessuale. Ma in confronto agli americani, per carità, quelli proprio non li sopporto. Sono dei barbari. Ha visto il mio sfollagente? Lo tirò fuori da dietro il banco e lo fece oscillare un paio di volte avanti e indietro. Lo tengo solo per gli americani. Mi è già servito piuttosto spesso, glielo assicuro. Thank you.